Il famoso psicologo Edouard Claparède, nel 1911, architettò tutta una sua metodica per studiare i deficit neurologici correlati alla memoria. È grazie a questa metodica, per esempio, che ha potuto distinguere fra due tipi di memoria, fra memoria esplicita e memoria implicita. Il test praticamente cominciava e finiva al momento stesso dell'incontro con il paziente. Se questo gli dava la mano era un conto, se questo non gliela dava e motivava il perché era un altro conto, ma se questo non gli dava la mano e apparentemente non ne sapeva il perché, era per lui facile attribuirne la causa ad un deficit della memoria implicita. Infatti Claparède, per abitudine, nella mano che tendeva al paziente nascondeva sempre uno spillone. Ovvio che chi ne accettava la stretta ad ogni nuovo incontro avesse qualcosa che non va. Qualche anno dopo un altro psicologo, tal Murican inventò il test del raddrizzamento brusco. Questo test consisteva nel prendere dei giovinetti, possibilmente in età prepubere, nello spogliarli radicalmente di qualsiasi indumento e di farli distendere nudi sull'apposito tappetino. Il raddrizzamento brusco, che dà il nome al test, è quello che il giovinetto o la giovinetta in questione avrebbero dovuto compiere per portarsi in posizione eretta non appena lo psicologo avesse dato il via premendo al contempo il pulsante di un cronometro. Dal tempo rilevato se ne dedurrebbe qualcosa sulle capacità neuromuscolari del soggetto. Ai tempi nostri, tempi più raffinati, al centro di endocrinologia pediatrica dell'Università di Minnesota stanno misurando tutti i clitoridi che gli capitano a tiro. Lo scopo tutto scientifico che li muove è quello di definirne le misure normali. Clitoride è parola che viene dal greco, da kleitor, che stava per collina, una metafora dunque abbastanza idonea per designare questo particolare anatomico del sesso femminile. Al di là dei casi di clitoridomegalia, noti come nel caso dell'attrice brasiliana Vanessa Del Rio, tanto per intenderci, casi che sembrano attribuirsi ad una produzione esorbitante di ormoni come il testosterone nel periodo dell'adolescenza, al di là di questi casi, dicevo, la norma sembrerebbe attestarsi sui 5 mm di lunghezza e i 3,3 mm di larghezza per una superficie di 16,7 mm quadrati all'incirca. Armarsi di squadra e righello, verificare per credere, anche se i risultati della scienza parlano chiaro. Vedete, vicende come queste, come quella di Claparède, di Murikand o del centro di endocrinologia dell'Università di Minnesota, vicende come queste non appartengono alla storia della magistratura, bensì alla storia della scienza. Il che spiega come al mondo, non tutti i casi di sadismo, di pedofilia e di satiriasi vengano perseguiti e puniti.